una provocazione grave nel metodo e nel merito. Nel metodo perché si convoca un incontro la domenica sera alle 19 senza testi, il 1° maggio si convoca un Consiglio dei Ministri che approva un decreto che a oggi io non ho ancora letto i testi perché non sono disponibili, quindi aspetteremo la Gazzetta Ufficiale e quindi questo la dice lunga sulla qualità del confronto con le organizzazioni sindacali, ma addirittura le conferenze stampa si sostituiscono con i video, per cui la qualità della democrazia che ha in mente chi ci governa è questa, cioè neanche il contraddittorio, neanche le domande da parte dei giornalisti. Ritengo che la decisione di approvare un decreto lavoro che è anche sbagliato e grave nel merito il giorno del 1° maggio denota un disagio di chi è al governo sulle feste che non sono mai state le loro, non era la loro il 25 aprile, non è loro il 1° maggio, e quindi i comportamenti un po' scomposti di queste ultime settimane denotano un disagio di chi è sempre stato dall'altra parte. E nel decreto però ci sono problemi anche di merito, perché al di là del giudizio che non può essere che positivo della riduzione del cuneo contributivo per i lavoratori, che va in una direzione richiesta dalle organizzazioni sindacali, anche se con decorrenza 1° luglio e con conclusione 31 dicembre, quindi sembrava più utile per convocare una conferenza stampa o fare un comunicato stampa che per andare a ridurre strutturalmente il peso delle tasse e dei contributi sul lavoro dipendente. Di grave nel decreto lavoro c'è l'ulteriore smantellamento di un pezzo di decreto dignità, cioè la liberalizzazione dei contratti a termine. Io aspetto di vedere il testo finale per capire fino a dove si sono spinti, se arrivano anche alla certificazione dei rapporti di lavoro con i consulenti del lavoro, oppure se si limitano a aumentare il periodo di ricorso ai contratti senza causali e senza vincoli, che comunque andrebbe nella direzione opposta del richiamo anche avanzato dal Presidente della Repubblica Mattarella a Reggio Emilia 2 giorni prima, il 1° maggio, in cui anche il Presidente della Repubblica riconosceva nella precarietà il dramma del nostro Paese. Liberalizzazione dei contratti a termine e maggiore facilità nell'utilizzo dei voucher, che rischiano di compromettere dal punto di vista della qualità del lavoro e delle retribuzioni la stagione turistica, per esempio in Riviera. Davvero stride, abbiamo le imprese che dicono che non trovano i lavoratori e poi aumenta la precarietà e dietro la precarietà si nascondono i bassi salari. Voi avevate già annunciato e sabato prossimo ci sarà una mobilitazione che comincia da Bologna. Come dire, è l'inizio di un percorso. Sì, è l'inizio di un maggio italiano. 3 manifestazioni, una piattaforma semplice, con proposte chiare, un punto di vista preciso per aumentare i salari e i redditi di fronte all'inflazione che erode il potere d'acquisto, la richiesta di una riforma fiscale che vada a prendere i soldi dove stanno e quindi che tassi le rendite, che tassi i profitti, visto che abbiamo un'inflazione trainata dai profitti e non certo dagli aumenti salariali, la difesa dei servizi pubblici a partire dalla sanità che rischia il collasso anche in Emilia Romagna, contro la precarietà, per dire basta alla piaga tutta italiana dei morti sul lavoro, che continuano a essere 3 al giorno, come ci ricorda il lavoro prezioso dell'Osservatorio Indipendente di Bologna sui morti sul lavoro, per una vera politica industriale, per una riforma delle pensioni che cancelli la riforma delle pensioni peggiore d'Europa. Sono 3 manifestazioni, noi scommettiamo su una partecipazione dei lavoratori, stiamo facendo centinaia di assemblee nei luoghi di lavoro, era necessario andare a discutere con le lavoratrici e i lavoratori nei posti di lavoro, negli uffici pubblici, nelle fabbriche, perché abbiamo bisogno di una mobilitazione che duri nel tempo. Partiamo con le manifestazioni di sabato, se il governo non torna indietro non escludiamo nulla, compreso ovviamente lo sciopero, gli scioperi delle categorie, lo sciopero generale, perché dovremo dimostrare che il mondo del lavoro non si illude di fronte alle provocazioni, ai tentativi anche di dividere il mondo del lavoro tra lavoratori della grande impresa, lavoratori della piccola impresa, costruendo da parte del governo un blocco sociale contro il mondo che rappresenta invece il sindacato e il lavoro organizzato. Era il corteo, la CGIL invita i propri iscritti simpatizzanti al corteo che parte alle ore 9 da Piazza 20 Settembre per raggiungere Piazza Maggiore, dove si svolgerà la manifestazione con i comizi conclusivi dei 3 segretari generali e le conclusioni di Maurizio Landini.